Chiedo scusa per quello che sto per cantare, ma... Farabutta mi ha rubato il cuore. Dentro c'era una 24 ore. È un solo proiettile, sai che ti dico? Sparati e poi fammi il dito. Meglio? Di stile cedo, non mi correggo ma mi spiego. Con le rime faccio tipo con il Lego. Rimango qui, rileggo gli appunti di una vita dentro la mia mente. Non sono mica un demente. Faccio questo freestyle così, caoticamente. Nella mia testa c'è una cosa lirica che non posso spiegare. Vorrei portarti nel mio mondo abissale. Nelle mie metriche c'è qualcosa, un arsenale. Rimango qui tipo enigma. Laura, nella mia testa c'è qualcosa che ti sogna. Spontanea, siamo fatti l'uno per l'altra, ma vaffanculo lontana. Impercettibile, la tua strofa nella mia mente si fa labile. E finirà, sparisci dalla mia vita, dalla mia anima. Mi complesso, rimango qui, sono una band io stesso. Sono un complesso. Sono Eros e Tantos che fanno una guerra tra la vanità e il vanto. E il manto che mi metto addosso diventa magico, perché il colore della carne prende quello della soffa. Mitico, lirico, abuso della metrica tipo ninja atomico. Sono Akira sulla base di tua mira. Fai e prendi bene la mira. Bisogno di un vero mito, non di gente che blatera su ciò che è Dio, su ciò che è mio o è tua. Tutta questa gente mandala a fanculo.